Tutto cominciò quando quel giorno lei vide lui. Tutto trasformò dentro il suo cuore per quel credo che fu lui. Una madre che di tutto si può dire, ma che solo amò. E di un frutto del suo seno tanto caro lei poi chiamò. Agostino, quanti viaggi farai per comprendere che tu sei parte di lei, figlio suo. Tu nascondi per confonderti. Quante lacrime sprecate per viziare un senso licito. Ma la tentazione dolce ti fa scusa per spingermi. Sai che è una bugia d'orgoglio così freddo e Dio c'è.